Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 11 minuti in questo istante, ultimo appuntamento per questa settimana con Salva Danaio. Oggi parliamo di un annoso problema sul quale Salva Danaio è tornato molte volte: il rapporto tra le banche e i clienti e le bacchettate arrivate dall'antitrust, che non sono le prime, sono soltanto le ultime in ordine di tempo e magari ce ne saranno anche delle altre in futuro, e noi cerchiamo un po' di fare il punto sulla situazione. Lo faremo come sempre con degli ospiti. Prima però vogliamo raccontarvi che cosa sta succedendo sui listini. In questo momento Parigi guadagna uno 0,99%, Francoforte resta più indietro, più 0,14%. Londra guadagna l'1,81%, resta leggermente più indietro anche Milano, dove il FTSE Italia All Share guadagna lo 0,51%, mentre il FTSE MIB guadagna lo 0,6%. Sul listino principale il miglior titolo è UBI Bank, che guadagna il 3,76%, Prismian guadagna il 2,52%, Buzzi Unicem il 2,48%, Luxottica il 2,03%. Il peggior titolo invece è Ansaldo, che cede l'1,6%, il Banco Popolare cede l'1,5%. Oggi doppia velocità per quanto riguarda i titoli bancari: Mondadori cede l'1,45, Bulgari l'1,36, Campari l'1,20, così come anche Fiat in sofferenza dall'inizio della seduta. Ricordiamo ieri il vertice a Palazzo Chigi tra i vertici del Lingotto e il governo, le parti sindacali e gli esponenti delle regioni, per fare il punto sulla situazione soprattutto degli impianti Fiat in Italia e in particolare ovviamente quelli del sud più a rischio, Termini Imerese e Pomigliano d'Arco. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,3931 sul dollaro. Da segnalare in modo particolare oggi in Italia il dato relativo alla disoccupazione, un dato che cresce. Nel primo trimestre del 2009 la disoccupazione si attesta al 7,9%, l'anno scorso nello stesso periodo era al 7,1%. Adesso però veniamo a noi, banche e clienti, e appunto quanto ha detto anche negli ultimi giorni l'autorità garante. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per tutte le vostre telefonate. Io ovviamente a questo punto vi presento, introduco i nostri ospiti. Al telefono la dottoressa Francesca Ferri, direttore generale della tutela dei consumatori dell'autorità garante della concorrenza dei mercati. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. E in studio con me il collega di Plus 24, Paolo Zucca, buongiorno anche a te. Ciao, buongiorno a tutti. Adesso però il nostro tema viene introdotto, come di consueto, dalla nostra scheda. Giù le mani dai consumatori. È questo in sostanza il monito che il presidente dell'antitrust, Antonio Catricalà, ha lanciato nei giorni scorsi alle banche, perché facciano passi avanti verso una trasparenza ancora compromessa da contratti incomprensibili. Stabilità e redditività discendono anche da fattori reputazionali, che oggi sembrano compromessi più che in altri periodi. Parte della sfiducia è dovuta alle prassi contrattuali spesso troppo articolate e difficilmente comprensibili da parte dei consumatori. A questo si può e si deve rimediare. Vanno fatti ulteriori passi in avanti sulla strada della trasparenza, intrapresa solo ora con una certa timidezza. Centrale è il rapporto degli istituti di credito con le piccole e medie imprese. Pur non avendo specifica competenza, riceviamo molte denunce da questo fondamentale settore produttivo e registriamo un alto grado di insoddisfazione. Nella sua relazione annuale al Parlamento martedì scorso, il presidente dell'Autorità di Garanzia del Mercato ha messo dunque al primo posto l'attenzione e la tutela dei consumatori, esposti oggi a rischi provenienti da diverse direzioni e quanto mai insoddisfatti nonostante i provvedimenti normativi in materia di tassi, mutui e trasparenza. Ed è proprio su questo ultimo aspetto, la trasparenza, che l'antitrust ha posto l'accento, richiamando le banche a fare ulteriori passi avanti. perché la reputazione degli istituti di credito oggi sembra compromessa più che in altri periodi, anche a causa di prassi contrattuali spesso troppo articolate e difficilmente comprensibili da parte dei risparmiatori. Un passo ritenuto necessario, quello dell'antitrust, che di fatto ha constatato un sostanziale immobilismo da parte degli istituti di credito dopo i numerosi richiami lanciati dall'inizio dell'anno, ai quali si sono aggiunti ripetuti moniti del governatore di Banca Italia Draghi e le lamentele da parte delle associazioni dei consumatori. Allora, vorrei partire proprio dalla dottoressa Ferri, visto che abbiamo ascoltato anche la voce del presidente Antonio Catricalà. Dottoressa Ferri, con quali mole di, come dire, di proteste vi trovate a dover lavorare ogni giorno proprio per la mancata informazione, per la mancata trasparenza? Quanti soggetti deboli si rivolgono a voi per questo problema? Noi abbiamo due possibilità per i consumatori di poter rivolgere le loro denunce, insomma lamentele. Una è l'unità call center, perché abbiamo un call center che proprio riceve telefonate. Il call center è da poco più di un anno che opera e abbiamo avuto più di 15.000 telefonate e segnalazioni da parte di consumatori, che riguarda tutti i settori dell'economia. E, però diciamo che il credito, la parte bancaria, il settore bancario, insomma una grande parte, diciamo 15% di queste telefonate erano appunto riferite al settore bancario. Poi abbiamo l'attività proprio nostra della direzione generale, appunto abbiamo segnalazioni per iscritto che arrivano dai consumatori e le posso dire che per quanto riguarda proprio il settore credito, abbiamo dal 2008 fino ad oggi abbiamo chiuso 570 casi e abbiamo chiuso 47 istruttorie su tutto il credito, nel senso credito assicurazioni, e adesso abbiamo in atto 670 casi aperti che riguardano sia il credito al consumo, le banche, le assicurazioni, quindi e una serie di istruttorie aperte sempre su queste tematiche. Quindi come vede, insomma, il lavoro c'è, non manca. Ci sono tanti consumatori che si rivolgono a noi per questi problemi. Certo. Paolo, facevamo delle considerazioni qualche istante fa tra di noi, cioè ci dicevamo sicuramente il cliente viene tutelato da più parti, da più istituzioni, però deve essere anche lui che si deve rendere attivo e deve controllare. I dati che ci ha fornito la dottoressa Ferri in qualche modo ci raccontano anche che tutto sommato il cliente non è poi così non attivo, cioè si adopera però forse dovrebbe fare di più. Ma c'è un aspetto emotivo e c'è un aspetto razionale. Chiunque ha avuto a che fare con banche e assicurazioni probabilmente ha toccato più l'aspetto emotivo, l'insoddisfazione, si potrebbe usare anche termini più pesanti. Quando poi c'è il momento del cambio della banca, succede qualche cosa e non si cambia banca. Da questo punto di vista c'è ancora un passaggio da fare. Quindi arrivare razionalmente al proprio istituto, avere dei dati di riferimento di altri istituti, andare a vedere se le condizioni sono peggiori o migliori e scegliere. Purtroppo questa seconda fase non c'è ancora, c'è una fase di denuncia, di insoddisfazione, mi faccio sentire, telefono Salvadanaio, scrivo Plus, certo. Ognuno fa la sua parte, l'associazione dei consumatori, Banca Italia, per carità, sono aumentate moltissimo le occasioni, però poi manca un passaggio. Che è un po', come dire, lasciare la vecchia abitudine e poi cercare di trovare qualcosa di nuovo che ci possa soddisfare di più, insomma, a 360 gradi. Perché mi verrebbe a dire, purtroppo, ci si potrebbe aspettare da questi anni di battaglie dei consumatori anche un tasso di turnover, di cambio di banca superiore. Non è così. È sempre un 7%. Solo un 7% degli italiani cambia banca. Quindi evidentemente c'è qualche cosa che è ancora di indefinito o che forse è ancora molto faticoso cambiare banca, però anche qui le liberalizzazioni sono intervenute e si può cambiare banca relativamente, diciamo, in maniera meno pesante rispetto a prima, quando era veramente quasi impossibile. Ora si può cambiare banca, ma non lo si fa. Voi avete dei dati anche relativi al turnover negli altri paesi da confrontare con quelli italiani? Sì, c'è un tasso che può essere superiore, ma attenzione, può essere un tasso superiore anche perché ci può essere un'evoluzione, diciamo, del modo di intendere la banca. Evidentemente chi ha un rapporto di banca a distanza, di banca telefonica, di banca su internet, è più propenso a cambiare, ma non più di tanto, per la verità. Laddove il rapporto è ancora molto fisico, le capacità, per fortuna anche dipendenti bancari, di colloquiare con il cliente, le difficoltà di spostare i conti, spostare le utenze, ma ripeto, anche in questo caso passi avanti sono stati fatti, evidentemente mantengono dei margini per trattenere il cliente. Noi anche qui all'interno di questo palazzo abbiamo dei casi sulle 24 ore di colleghi che sono insoddisfatti della propria banca, ma poi dicono abbiamo altro da fare, non abbiamo tempo per cambiare banca. Ecco, questo è un passaggio logico che invece andrebbe fatto. Dottoressa Ferri, quali sono i casi con i quali più spesso vi trovate ad avere a che fare? Ovvero quali sono gli ambiti in cui l'informazione manca di più, è più carente tra banca e cliente? Dunque io volevo un attimo intervenire, certo, sul fatto appunto del problema perché non si sceglie, no? Perché non si cambia banca. Sì. Beh, io credo che molto sia dovuto al fatto che appunto c'è poca informazione, ancora ci sono delle difficoltà, non è che è così, insomma, cioè non è solo un problema del consumatore perché dice no, non mi vanno a tempo. No, certo. È anche un problema di informazione e poi effettivamente anche quando uno cambia banca non tanto spesso ci sono anche delle difficoltà perché uno se c'è le domiciliazioni bancaria e tutto, comunque spesso e volentieri ci vuole un po' più di tempo, quindi c'è anche questo aspetto che non è rilevante. Dunque, per quanto riguarda i casi che noi abbiamo all'ordine del giorno, insomma nel senso che di solito arrivano, ultimamente dunque abbiamo avuto naturalmente tantissime denunce per la portabilità dei mutui, continuiamo ad avere anche problemi sulle commissioni di massimo scoperto e soprattutto abbiamo tantissime denunce per quanto riguarda il credito al consumo. Quindi questi sono gli aspetti più rilevanti che riguardano appunto i casi relativi al credito, al settore bancario creditizio in generale. E naturalmente ci sono molti consumatori che si lamentano adesso in questo periodo, abbiamo avuto un certo numero di denunce per quanto riguarda appunto la modifica della commissione massimo scoperto. Anche qui annoso problema in cui penso tutti noi ci siamo imbattuti nelle ultime settimane perché sono arrivate a casa delle comunicazioni di modifiche contrattuali come di solito avviene da parte delle banche, modifiche unilaterali a meno che uno non voglia recedere nei successivi 30 o 60 giorni. Cosimo dalla provincia di Torino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, io ho chiamato per raccontarvi che praticamente ho subito l'informazione, io ce l'avevo perché me l'ero procurata da solo, ma ho subito un ostruzionismo impressionante per contrattare un nuovo mutuo nel periodo di tra gennaio e febbraio di quest'anno per arrivare poi a stipularlo a marzo, che io avevo reputato fosse il periodo migliore e infatti così poi si rivelò. Praticamente la mia banca, che è la Intesa San Paolo, hanno fatto di tutto, piccole sciocchezze tipo non ho ricevuto la tua email oppure sì guarda stiamo preparando, nel frattempo ha fatto passare mesi e come voi sapete meglio di me in pochi mesi la situazione si ribalta con facilità. E ora arrivo al fulcro del problema, cosa sì. Ho detto? Me ne vado, no? Banale. Ho girato 12 banche e ho trovato lo stesso prezzo dappertutto. E questo è il vero problema, il cartello. Allora, Cosimo, qui abbiamo toccato un altro problema, un problema fondamentale che è quello della concorrenza tra le banche. Paolo, si sono fatti dei passi avanti negli ultimi anni, però mi sembra che siamo ancora piuttosto lontani da quelli che sono gli standard europei anche. Beh, sicuramente qualche passo avanti è stato fatto, perché sarebbe anche non riconoscere, diciamo, il lavoro che è stato fatto dall'antitrust, che è stato preziosissimo. Ricordo che l'antitrust interviene proprio sul tema della concorrenza, mentre la Banca Italia il tema è quello della stabilità delle certo. banche del sistema bancario. Passi avanti sono stati fatti, però è anche evidente che un certo modo di fare non è cambiato, non c'è voglia di avere un grande tasso di turnover della clientela e non c'è niente che porta il dipendente bancario, ma non per carità, non per colpa sua, a velocizzare le pratiche, anzi al contrario, non mi stupisco di quanto ha raccontato il risparmiatore. In questi casi bisogna andare anche molto attrezzati psicologicamente, avere tutta la documentazione, avere la conferma ad esempio che è stata inviata una mail, cioè non far certo. perdere questo tempo. Mi rendo conto che è molto faticoso per il risparmiatore. Di fronte a questo cartello o semicartello, come lo vogliamo fare, bisogna essere più attrezzati e purtroppo dedicare anche del tempo, e questo non è facile. Dottoressa Ferri, qui abbiamo toccato il problema della concorrenza. Il collega giustamente Zucca diceva molto è stato fatto e soprattutto dall'antitrust. Quali problemi avete riscontrato e quanto ancora secondo lei c'è da fare? Ma Chiaramente, dunque, noi la competenza sulla concorrenza non è che ce l'abbiamo da tanto tempo, no? Sì. E da quando abbiamo avuto appunto questa competenza, in particolare perché noi prima avevamo un parere alla Banca d'Italia, era certo. La Banca d'Italia che aveva sì. La competenza, adesso ce l'abbiamo noi. E siamo intervenuti, abbiamo fatto tante istruttorie per quanto riguarda la concorrenza e stiamo ancora lavorando. Chiaramente il problema c'è, ce ne rendiamo conto ed è abbastanza complicato, però diciamo che gli interventi, io insomma, il fatto che comunque ci sia un antitrust presente, perché infatti lo siamo, e credo che questo ci vuole tempo nelle cose, però io penso, sono fiduciosa che questo si porterà sia con la tutela del consumatore sia con la concorrenza, perché appunto questi strumenti, cioè noi abbiamo due possibilità, sia intervenire direttamente con la concorrenza e anche con la tutela, quindi abbiamo visto che rafforzando anche la possibilità di intervento alcune cose si ottengono. Ci vuole tempo, perché effettivamente, ma in tutte le cose noi abbiamo visto che ci vuole tempo, perché effettivamente è un paese, l'Italia, che non è molto abituato a questo, no, a ragionare certo. In questo modo. E quindi una volta che si liberalizzano i settori vengono fuori delle situazioni particolarmente gravi dal punto di vista concorrenziale, noi facciamo quello che possiamo. Naturalmente siamo un'autorità fatta di poche persone, non siamo tantissimi, lavoriamo tanto, però certo penso che poi con la figura del nostro presidente, che ci tiene molto su questo aspetto soprattutto, faremo ancora di più, penso. No, anche perché poi si determinano delle situazioni in cui, come ad esempio ci scrive Marco da Vigevano, non si cambia banca perché a nessuno piace passare dalla padella alla brace. Eccoci qui, 12.34. Allora, ci eravamo salutati parlando di Domenico da Udine. Vedo che è stata ripristinata la linea con il signor Domenico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, ci dica tutto. Posso affrontare tre temi, sempre. Cerchi di essere il più breve possibile, signor Domenico. Sintetico. Beh, il primo è quello che ha anticipato anche Cosimo, che comunque bisognerebbe andare in banca con un avvocato. E quindi a quel punto non cambi, primo. Secondo, adesso verranno fuori anche tante storie, perché per esempio mio figlio ha perso il lavoro, aveva fatto un prestito per comprarsi la macchina, aveva fatto l'assicurazione a copertura del credito, praticamente l'assicurazione non sta pagando, la banca è fuori e quindi va praticamente la pratica... va fuori fido e quindi di conseguenza non ha un fido, fuori massimo scoperto, ecco, e pagherà un sacco di soldi praticamente, e quindi di conseguenza, e poi sarà anche segnalato alla centrale rischi naturalmente. E terzo problema, il mio mutuo è superiore al 4%. Sì. Chi deve pagare, dato che lo Stato ha detto che copre... oltre il 4% copre lo Stato, a chi devo rivolgere? Allora, questo poi... saranno, insomma, li vedremo piano piano tutte queste problematiche. Il signor Domenico però non ci ha detto il motivo per cui poi in realtà aveva telefonato, e cioè che le condizioni delle banche sono sempre le stesse. Noi avremmo voluto chiedere se il signor Domenico ha fatto un'indagine dal vivo, quindi recandosi in diversi istituti bancari, per capire se davvero le condizioni offerte sono tutte uguali e quindi è inutile cambiare banca. Elena da Livorno, buongiorno. Buongiorno, allora innanzitutto vi volevo dire che è un piacere sapere che esiste una radio dove possiamo continuamente avere informazioni aggiornate e professionali come ci state procurando. La ringraziamo, voi. Signora Elena, ci dica. Senta, ci sono diciamo due aspetti di questa cosa. Uno è l'aspetto privato, nel senso che il piccolo consumatore con gran fatica riesce a ottenere un mutuo con una minima stabilità economica, che ora è particolarmente difficile da trovare. E nonostante questa condizione riesce difficile spostare per esempio il mutuo, come ho provato a fare io cercando una surroga, perché le banche alle quali mi rivolgo chiedono una fiducia assoluta. E non solo. In che senso, signora, una fiducia assoluta? Perché innanzitutto chiedono per esempio anche lo spostamento del conto corrente, nonostante sia stato dichiarato più volte che questa cosa non è consentita, ci sono stati vari pronunciamenti rispetto a questo argomento, però le banche continuano a chiederlo. All'interno di questo discorso c'è che all'interno della propria banca noi siamo comunque delle persone che con fatica negli anni abbiamo costruito un minimo di rapporto, anche se con costi molto alti. Quando ci spostiamo da un'altra parte, in realtà siamo un illustre sconosciuto. Loro ti danno anche delle buone condizioni di rapporto contrattuale, sia nel conto corrente che nel mutuo. Però poi in realtà è molto difficile fargli capire che sei una persona affidabile, di cui ci si può affidare, che gli si può dare un prestito, un mutuo e tutto il resto. Un altro aspetto di questo. Sì, le chiedo di essere breve, signora Elena, perché ci sono altri ascoltatori che aspettano. Un altro aspetto di questo, sempre nel piccolo consumatore, però aziendale, è che è diventata una prassi che crea una sfiducia in banca assoluta, che le riva tornano sistematicamente indietro. Ora io posso capire che una ricevuta bancaria torni indietro da una piccola azienda nel rispetto a un'altra azienda, ma questo è diventato sistematico anche nelle grandi aziende. Sta diventando una situazione come lo era all'epoca la cambiale quando è stata buttata sul mercato. Non c'è non esiste una penale per questa cosa. E questo crea uno scompenso in banca mostruoso. Allora, grazie alla signora Elena da Livorno. Paolo, vorrei chiederti di fare un attimo chiarezza su due aspetti. Sì. Il primo è, la signora diceva molto spesso si chiedono di spostare anche il conto corrente. Questa comunque è una richiesta, credo, legittima da parte della banca, anche se... Sì, uno può poi decidere quello. Esatto. Ma noi, cioè, se abbiamo capito bene, una serie di problemi insomma, che sono emersi da queste due telefonate, c'è un problema di affidabilità che diceva la signora. Facciamo fatica a far capire che siamo dei clienti, che tipo di persone che siamo affidabili, eccetera. Con un passaggio, diciamo, siamo degli illustri sconosciuti. Evidentemente c'è una storia bancaria che le banche sono in grado di confrontare, se c'è stato naturalmente qualche incidente alla CRIF, che è la centrale rischi. Sì. Quali sono le garanzie di stipendio? Evidentemente in questo periodo può essere anche più difficile, o delle garanzie immobiliari. Dovrebbe esserci la possibilità quindi di spiegare che si è dei buoni clienti. Io non credo che in questo momento le banche rifiutino un cliente non conosciuto, forse rifiutano un cliente che può dare dei problemi futuri, ma un cliente che ha una buona affidabilità dovrebbe essere accolto. Certo, è sconosciuto nel momento in cui entra, come quando entriamo forse in un ristorante, però dovrebbe esserci un clima di questo tipo. L'altra cosa su cui sono emerso, un grande problema sul credito al consumo, mi sembra strano che un'assicurazione possa non far fronte al suo impegno in caso di perdita del posto sì. di lavoro da parte del ragazzo, quindi delle compagnie S, ci sono delle clausole che magari sono piccole clausole trappola. Nel settore del credito al consumo abbiamo rilevato molte proteste ed è un settore naturalmente a tenere sotto osservazione. Ci diceva anche infatti la dottoressa Ferri che su questo loro hanno avuto tantissimi... Anche noi abbiamo segnalazioni a plus notevoli di questo settore, sia per il tasso e sia per il funzionamento. Insomma, sono emersi diversi problemi, compresa appunto anche Riba che tornano indietro, è tutto. Mi sembra di capire che emerga però ancora un momento emotivo, la difficoltà di trattare con la banca, che a mio giudizio è uno dei problemi maggiori. Forse bisognerebbe riuscire, se posso sintetizzare, magari sto esagerando, bisognerebbe urlare meno in banca e andarci più preparati. Non so se con l'avvocato o meno, ma andarci più preparati. Meno urla e più dati di fatto, è più faticoso forse. Dottoressa Ferri, le volevo chiedere questo, come mai, perché è così difficile far passare il messaggio che l'informazione, che è poi come dire, l'arma principale da parte del cliente per capire, per comprendere e per fare poi anche le proprie valutazioni, deve essere un'informazione chiara, non molto arzigogolata, che è poi un po' un tema detto in maniera anche un po' brutale su cui ci giocano molto le banche. Ma infatti questo è un problema proprio di questo settore e tanti altri settori dell'economia, ma in particolare il problema delle asimmetrie informative, cioè noi abbiamo una situazione in cui le informazioni, chi ha più informazioni è il settore, appunto le banche, rispetto al consumatore. Il consumatore si trova sempre in una situazione un po' di debolezza, no? Da questo punto di vista, sì. Proprio perché non ha tutte le informazioni e non può decidere. Chiaramente non è che bisogna dare tante informazioni, perché tante informazioni vuol dire non darle, cioè esatto. Il problema è darle chiaramente, e quando anche uno sottolinea sottoscrive un contratto, anche un contratto di finanziamento, appunto l'assicurazione, magari appunto nel contratto uno dice faccio l'assicurazione così sono tranquillo, e poi in realtà poi c'è una clausola vessatoria sicuramente che dice no, però nel caso in cui tu perdi il lavoro l'assicurazione non vale, vale solo in caso di morte, per dire, no? Certo. Quindi sostanzialmente c'è questo aspetto che uno quando va a firmare questi moduli, che sono moduli addirittura certe volte neanche leggibili o comunque lunghi, uno deve cercare esatto. a poco tempo, sì. E quindi succede questo, che uno si trova a firmare dei contratti che poi non ha neanche senza sapere che cosa poi ha sottoscritto in realtà. Quindi il problema è la trasparenza, che vuol dire trasparenza, non vuol dire solo l'informazione, vuol dire informazione che sia chiara, che è dove appunto poi il consumatore ha veramente la possibilità di scegliere in modo preciso e in modo consapevole, perché il problema proprio e poi naturalmente è legato a tutto, l'informazione, la trasparenza, anche la correttezza da parte delle banche e anche in altri settori abbiamo lo stesso problema, devo dire, e questo aspetto fa sì che il consumatore non è in grado di scegliere liberamente e quindi non è neanche in grado di mettere in concorrenza gli istituti tra di loro sul mercato, quindi questo è molto importante, quindi questa è un po' una barriera che c'è, no? Cioè non possiamo dire, tante volte non possiamo parlare di cartelli veri e propri, però tante volte spesso e volentieri il fatto che il consumatore, perché il consumatore è importante, perché comunque le banche ci sono, perché ci sono i depositi dei consumatori. E certamente, perché, direi. Quindi, però l'aspetto fondamentale è che il consumatore, se non è in grado di scegliere, non può neanche, non ha la possibilità di mettere in concorrenza gli operatori che sono sul settore, questo è il problema, quindi non avendo l'informazione giusta, adeguata, ed è per questo che noi interveniamo, soprattutto con le pratiche commerciali scorrette in materia di tutela del consumatore, perché è questo che a noi ci interessa, la trasparenza, certo. Come ha detto anche il Presidente è nella sua relazione. Il problema è proprio la trasparenza, la correttezza anche degli operatori. Assolutamente, che comunque si trovano in una posizione dominante, per cui fanno un po' ciò che vogliono, se possiamo dirla così. Ambrogio da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Ci dica tutto. Allora, quello che ha detto la dottoressa Ferri è estremamente vero, solo che purtroppo loro non fanno niente per opporsi alle banche. Per un motivo solo, perché io lavoro in proprio da 74, diciamo quando lei non ha bisogno i soldi della banca sono sempre disposti ad offrirli, sì. Nel momento in cui uno ha un problema o ha una necessità, parliamo oggi di euro, un euro in più la rivoltano come un calzino per avere questo, primo. Seconda cosa, quando lei pensa di cambiare istituto, sì. Assolutamente impossibile. È vero che loro si celano tutti dietro a questi papiri, scritte, giustamente, impossibili da leggere, firma qui, firma là, sì. E poi quando uno si trova al problema, ha la patata bollente in mano, anche perché se facessimo i professionisti, non saremmo anche noi banca. Signor Ambrogio, però posso chiedere anche a lei se ha fatto una prova sul campo, cioè se si è rivolto, certo, a più istituti? Allora, noi come azienda lavoriamo con 8 istituti, non uno. Ah, 8, un bel numero. Però, ecco, però se lei li va veramente a prendere, quello che uno lo chiama A, l'altro lo chiama C, uno lo chiama B, ma la riga totale fa sempre 10. Ho capito, quindi ha la prova provata che le condizioni offerte sono più o meno le stesse, variando gli istituti. 12.47, allora stavamo commentando qui in studio che cosa ci ha raccontato l'ascoltatore. 8 istituti sono tanti, Paola, alla fine il quadro. È un bel punto di osservazione ed è un'osservazione francamente molto corretta, che risponde un po' anche alla battuta che si dice sempre: la banca ti dà l'ombrello quando non piove, te lo toglie quando piove. Sicuramente c'è una difficoltà ad avere credito in questo momento, l'economia non sta andando bene e le banche, che pure hanno avuto degli aiuti, molte banche hanno avuto degli aiuti pubblici, diretti o indiretti come garanzia, non stanno portando questo denaro diciamo alle imprese, soprattutto a quelle più piccole. È una telefonata, io credo, importante, quella del signor Ambrogio, che esprime uno stato d'animo e soprattutto lo esprime sulla base dell'esperienza di un certo. confronto. Enrico da Parma, buongiorno, benvenuto anche a lei. Sì, buongiorno a voi, salve. Ci dica. Io sono parzialmente d'accordo invece col signore di prima, in quanto è vero che c'è difficoltà a reperire credito in questo momento, però a parità di condizioni di garanzie date, farsi sentire in diversi istituti, quindi andare alla ricerca bene, di condizioni migliori si può fare e si può ottenere. Io posso portare la mia testimonianza da privato: in questi ultimi 5 anni ho cambiato 3 mutui diversi per la stessa abitazione, avendo sempre delle condizioni molto migliori. Però chiaramente bisogna essere disposti anche a contattare una banca magari molto lontano da casa. Il fatto di averne 8 non vuol dire avere sott'occhio tutto quello che è l'offerta, vuol dire soltanto pagare anche tante spese, però attenzione, però non andare da una e andare dall'altra vuol dire avere ancora, fino a quando non sei cliente, il coltello alla parte del manico, ecco. Quindi ho capito, non fermiamoci alla prima. Bene, comunque è importante anche la testimonianza del signor Enrico, che quantomeno è la prima telefonata, diciamo, positiva da oggi, e che questo premia in qualche modo anche il vostro lavoro, dottoressa Ferri, visto che il signor Ambrogio aveva bacchettato anche voi. Ma guardi, sono Ambrogio, benissimo, può pensare quello che vuole, ma comunque noi il nostro lavoro lo facciamo e cerchiamo di farlo al meglio. È chiaro che in tanti aspetti non è così facile intervenire, poi per tante altre cose, appunto il fatto che le banche non diano credito al consumatore non è nostra competenza, questo non certo. È un problema cioè non abbiamo tutti questi poter intervenire su tutto, però diciamo che quello che abbiamo fatto e che faremo ancora, perché le assicuro che sicuramente su questi aspetti, e tra l'altro appunto la relazione del Presidente Catrighella era abbastanza chiara, e tant'è vero che se ne parla perché appunto il Presidente è stato molto severo dicendo appunto che ci sono ancora molti problemi concorrenziali, quindi non è che noi siamo senza fare niente, no, ci mancherebbe. Faremo ancora di più in questo momento e soprattutto in questo settore, sia con le pratiche che sicuramente anche a livello della concorrenza. Insomma, diciamo che le parole del Presidente erano chiarissime, molto diffuse le pratiche che sfruttano abusivamente la posizione di svantaggio di soggetti deboli, questo nel corso dell'audizione alle Commissioni Finanze Camera dei Deputati il 7 maggio scorso, e poi ovviamente altre affermazioni da parte del Presidente. Luigi da Foggia, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno a voi. Senta, io sono un correntista normale, non ho un'impresa, non ho niente, ho un mutuo in banca. Sono andato per cercare delle spiegazioni più valide in confronto agli altri istituti, per il mio istituto, e volevo cambiare il mutuo da una banca all'altra. Sì. Sai che c'è stato l'aumento dei mutui negli anni scorsi e io avevo un mutuo a tasso variabile e volevo essere chiarito dal mio istituto. Così, dipendentemente dagli altri, mi ha detto di aspettare un po', perché può darsi pure che si abbassavano i tassi. Infatti andavano sempre a aumentare. Io, non per trascuratezza, ma per tempo, come per tutti, si va in banca, poi gli lasci il numero di telefono, la richiamiamo e non mi hanno più richiamato. Sono andato in un altro istituto, avevo fatto un mutuo a più basso tasso. Però ci stavano ad affrontare tutte le spese, allora si è ripensato un po'. Però non è che sia stato trasparente a dirle noi aspettiamo per quanto riguarda il suo mutuo, così vediamo di rinegoziarlo. Intanto abbiamo aspettato e poi è andato tutto a mio favore, perché i tassi si sono abbassati, ma non per loro, perché è successo quello che è successo. Certo. Era per loro. Certo, lei era lì, infatti lei, come molti di noi che abbiamo un mutuo a tasso variabile, mi ci metto anche io all'interno, poi abbiamo beneficiato dell'abbassamento dei tassi, che però è l'altra faccia della medaglia di una crisi che ci ha travolto un po' tutti, e quindi ovviamente non si sa a questo punto dov'è il bene e dov'è il male. Antonio dalla provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo fare solo 2 precisazioni molto interessanti per i risparmiatori. Da quando seguo voi e leggo Plus al sabato del Sole 24 Ore, quindi da 4-5 anni, sono abbastanza preparato. Bene, da quel momento lì tutte le banche, con le mie 2 banche con cui tratto, sono diventato un extraterrestre. Quando mi vedono scappano, non mi propongono più i loro tossici titoli, e questo, succede questo quando poi uno è preparato, viene marginato. Poi le dico un'altra cosa molto importante: io avevo dei bond argentini, sono andato a chiedere copia del mio ordine di acquisto, sì. Loro non l'avevano e avevano solo la copia del fissato bollato, mi stavano facendo firmare un foglio dove diceva che io prendevo praticamente la ricevuta del mio ordine di acquisto. Se io non mi accorgevo, purtroppo purtroppo io non ho preso la copia, perché quando gli ho detto ma questo non è il mio ordine di acquisto, questa è la copia del fissato bollato, sì, loro l'hanno me l'hanno ritirato, perché io mi sono accorto, a quel, certo, punto li ho denunciati, perché cioè ho denunciato e adesso mi sono tolto da Nicola Stork, che lì non si sa più quando si prenderanno i soldi, ho denunciato la banca. Allora, il signor Antonio dice sono diventato un emarginato perché mi informo, però a volte in alcuni casi è meglio essere emarginati, evidentemente. Ma a me spiace appunto che sia diventato un extraterrestre, sia stato emarginato la banca, però io la ringrazio ugualmente, perché per noi di Plus è un complimento arrivare informati ed essere in grado di trattare argomenti così delicati. Naturalmente immagino che lega anche altri dei prodotti editoriali, audiofonici, televisivi, certo, eccetera, arrivare informati e comunque arrivare a un livello consapevole di intervento, forse superiore a quello dei dipendenti bancari. Questo a volte capita, a me è capitato. Paolo, l'ultima battuta, brevissimamente, volevo sapere se c'erano delle novità in merito ai rimborsi sul tetto del 4% scavalcato da molti mutui variabili che erano l'unica stati. L'unica novità, ma poi dobbiamo verificarla, e vi ricordo che Plus fa anche delle candid bank, cioè delle visite alle banche con dei finti clienti, l'abbiamo fatto anche sul numero che uscirà domani per quanto riguarda i prestiti per i giovani. C'è una circolare dell'ABI che invita l'ABI, l'associazione bancaria, certo, che invita le banche ad adeguarsi. Vedremo che cosa succederà. Questo lavoro di candid bank, cioè di andare come giornalisti ma come finti clienti, permette di smascherare molte volte che fra enunciazione e realtà c'è molta differenza. E allora, per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Io voglio ringraziare i nostri ospiti, al telefono la dottoressa Francesca Ferri, direttore generale della tutela dei consumatori dell'autorità garante della concorrenza e dei mercati. A lei buon lavoro, ce n'è di lavoro da fare viste le comunicazioni che ci arrivano a casa dalla banca. Grazie però per essere stata con noi. Grazie a tutti. E saluto e ringrazio ovviamente il collega di Plus 24 Paolo Zucca per essere intervenuto e per averci aiutato a capire alcuni meccanismi. Ringrazio in redazione Gaia Romani, in regia Filippo Aureggi. L'appuntamento con Salva Danaio e con Deborah Rosciani è per lunedì alle ore 12.